l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica all'Europa, un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu, il sito di questo consorzio di radio europee. Si tenta di fare una cultura nuova del nostro continente, noi cerchiamo di farlo a nostro modo, dando sfumature, cercando fotografia, cercando di tratteggiare quelle che sono le novità, le nuove tendenze, ma anche magari cose non raccontate, non ben spiegate dalla stampa nazionale. Insomma, cerchiamo di fare un'Europa con le persone, con le loro storie. E l'altra Europa è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Oggi partiamo da una nazione che ieri era appunto nelle prime pagine di tutti i giornali. Perché la Corte di Giustizia dell'ONU ha detto che sì, l'autoproclamazione del 2008 del Kosovo non è contraria al diritto internazionale. Sul Kosovo sentenza giusta, ma rimanga un caso unico, è quello che dice oggi sulle pagine della stampa il ministro Frattini. C'è contestazione, la Serbia ha detto no, noi non ci stiamo, ma sono ben 5 per esempio le nazioni dell'Unione Europea che ancora non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Parliamo della Spagna, della Grecia, di Cipro, della Slovacchia e della Romania. Insomma, è un caso aperto, una piccola zona ai limiti dell'Europa, però può essere un precedente molto importante, può essere un precedente in grado di mettere in crisi o di attivare nuove spinte di indipendentismo, tipo in Catalogna, tipo nei Paesi Baschi, tipo in Corsica. Per capire però, al di là delle notizie, al di là di quello che racconta la stampa, cos'è il caso Kosovo e soprattutto cosa sta succedendo, abbiamo convocato la giornalista del Sole 24 Ore, che anche con un bellissimo articolo di ieri ha seguito il caso. Diamo il benvenuto a Elena Ragusin. Ciao Elena. Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Ciao Elena. Kosovo che tu conosci molto bene, vero? Sì, purtroppo, devo dire purtroppo, tra virgolette lo frequento da 20 anni, dall'inizio della crisi. E dico purtroppo perché è una terra veramente sfortunata. Innanzitutto pensiamo che è lo Stato, oggi possiamo dirlo e definirlo lo Stato più povero d'Europa. E la disoccupazione è altissima, arriva al 40-50% e la popolazione vive veramente, veramente male. E in questi 20 anni ha vissuto vicende veramente tragiche. Ecco, popolazione che ha subito anche, credo, queste vicende tragiche, ha subito un po' i giochi della politica. E com'è la popolazione kosovara? Tu hai avuto modo di conoscere tantissime persone, tantissima gente. C'è un tratto comune di questo popolo? Diciamo, non c'è un tratto comune e ci sono tratti che differenziano. Voglio dire, la popolazione di etnia albanese, che rappresenta ormai da diversi anni quasi il 90% della popolazione, non ha punti di contatto con la popolazione di etnia serba, che è la maggiore tra le minoranze, perché ricordiamo che ci sono anche altre minoranze. Il tutto si è acuito negli anni della dittatura di Milosevic, quando la popolazione albanese è stata sottoposta a una dura repressione. E Elena, proprio a spanne, no? È facile dire i serbi sono i cattivi, i kosovari sono i buoni, e quindi è giusto che la Corte dell'Aia abbia detto questo. Sto sintetizzando, quelle che sono anche proprio opinioni di pancia, opinioni quasi da bar. No, non è giusto dirlo, perché in effetti i serbi, cioè Milosevic, sicuramente anche alcuni serbi kosovari gli saranno andati dietro, hanno per anni controllato in maniera violenta anche la popolazione albanese, l'hanno repressa. D'altro lato però non dimentichiamo che sono stati gli albanesi a insorgere con la creazione del Movimento di Liberazione del Kosovo, e non erano sicuramente angioletti nemmeno loro, ne sono state compiute di efferatezza ancora prima da parte albanese, ancora prima dell'intervento della NATO. E poi queste efferatezze sono continuate con una contropulizia etnica nei confronti della popolazione serba. Ecco, quando il ministro Frattini dice sentenza giusta ma rimanga un caso unico, secondo te c'è possibilità? È un caso unico il Kosovo? No, no. Assolutamente, nel modo più assoluto. Ci sarebbero, credo, molti altri casi in cui sarebbe, tra virgolette, più legittima una secessione. Il problema è che il parere della Corte di Giustizia dell'AIA di l'altro ieri ha aperto veramente un fronte amplissimo e spaventoso, perché in sostanza cosa ha detto? Non come ci si aspettava. Sì, ci si aspettava un parere favorevole al Kosovo, all'indipendenza del Kosovo, ma è andata oltre la Corte di Giustizia. Ha detto, cioè, che tutto quello che non è esplicitamente vietato è concesso. Quindi rendiamoci conto a cosa potrebbe succedere in giro per il mondo. Eh sì, insomma, un precedente assolutamente pericoloso. Il ministro degli esteri della Serbia ha invitato i serbi alla calma. Secondo te è un appello che avrà seguito? Cosa ci dobbiamo aspettare ora? Beh, guarda, queste sono previsioni veramente difficili. E pensiamo che il governo serbo in questo momento è in grandissima difficoltà. Prima di tutto perché è un governo che ha una risicata maggioranza e ci sono i nazionalisti di opposizione che ovviamente cercheranno di prendere vantaggio da questa situazione per scalzare il governo. A questo punto, se i radicali dovessero andare al potere o se si andasse a nuove elezioni, effettivamente non so chi potrebbe controllare i serbi del Kosovo. Elena, sai, anche andando su YouTube o cercando informazioni su Google, mettendo dentro la parola Kosovo, veramente escono solo immagini di guerra, immagini di povertà. Tu puoi lasciarci con una cartolina bella del Kosovo, qualcosa di affascinante, di suggestivo. Se pensi al Kosovo in positivo, qual è la prima immagine che ti viene in mente? La prima immagine sicuramente è quella dei monasteri ortodossi. Monasteri che sono stati decretati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e devo dire che sono dei luoghi che ti danno un senso di spiritualità e di pace, soprattutto di pace enorme. Tu entri in questi monasteri e dimentichi tutto quello che sta fuori. Grazie davvero Elena Ragusin, giornalista del Sole 24 Ore. Magari ci ritroveremo nelle prossime puntate per se ci sono novità, per continuare a seguire appunto le vicende del Kosovo. Ciao e buon sabato, grazie. Grazie. Adesso l'Europostit e poi le informazioni sul traffico. Europostit. Giustizia europea a portata di mouse. L'Unione Europea ha lanciato eJustice, un sito dedicato a tutti coloro che si trovano ad avere a che fare con procedimenti giudiziari transnazionali, cioè quelle cause che coinvolgono più di un paese e che spesso possono creare difficoltà per via della lingua diversa e dei sistemi giudiziari differenti. Un sito utile quindi sul quale trovare un avvocato o scoprire se una legge è applicabile o meno in un determinato paese. Il sito si rivolge anche a professionisti come magistrati e avvocati ed è tradotto in 22 lingue. Il portale è ijustice.europa.eu. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, vi proponiamo nuove sfaccettature del nostro continente e oggi lo facciamo rimanendo nella penisola balcanica. Lui si chiama Milan Stankovic e ha rappresentato la Serbia nell'ultima edizione dell'Eurofestival 2010. L'abbiamo usato per introdurre il prossimo argomento. È un'associazione che nasce nel Trentino e si è data come obiettivo quello di proporre un nuovo modello di turismo, un nuovo modello di integrazione, pensando appunto ai paesi balcanici. E l'associazione, a cui corrisponde anche il sito, è viaggiareibalcani.it. È un progetto nuovo, un progetto innovativo. Per capire quello che fanno, abbiamo invitato uno degli accompagnatori di Viaggiare i Balcani, Leon Bosniaco. In questo momento è in Germania per studiare come manager culturale, specializzazione che non c'è nel suo paese. Diamo il benvenuto a Igor Sovili. Ciao Igor. Ciao. C'era anche il rappresentante della Bosnia, lo utilizzeremo per una prossima puntata, estrapolato appunto sempre tra i cantanti dell'Eurofestival. Igor, tu sei una guida turistica di fatto? Sì, a Prijedor dove abita. periodo in Bosnia. Mm-hmm. E sei uno degli accompagnatori di Viaggiare i Balcani, che è questa associazione che propone una forma di turismo anche innovativa, anche diversa, un modo di fare un turismo consapevole per andare a scoprire anche le altre culture. In che modo lo fate? Cosa vuol dire per voi fare le guide turistiche di Viaggiare i Balcani? Per noi, cioè non so come era nel resto del mondo quando loro l'avevano proposto a noi in Bosnia, però per noi era proprio una cosa nuova, è una cosa che abbiamo visto comunque una cosa per il futuro, ecco, una cosa sostenibile e responsabile che ci era piaciuta. E praticamente io sono di Priedor, io organizzo la parte mia, poi ci sono altri tour, altri operatori di altre città in Bosnia e nei Balcani che tutti insieme facciamo un programma per i gruppi che vengono dall'Italia. Quindi Viaggiare i Balcani prima in Italia organizza un gruppo di persone che poi vengono e fanno questo viaggio, maggior parte partono da Priedor e poi finiscono a Sarajevo o in Serbia o in altri posti, insomma nei Balcani, in Romania o anche. E così insomma dura 10 giorni, i gruppi non sono, quindi si fa così che i gruppi non siano troppo grandi e i gruppi che partecipano in questi viaggi sono sempre le persone che si trovano prima di partire e parlano, si conoscono e poi conoscono anche le persone del posto. Quindi tanta attenzione anche al lato umano, tanta attenzione agli incontri. Ci fai un esempio di un possibile itinerario per capire, oltre a quello che si vede, quello che si fa, da dove si vive appunto questa nuova forma di turismo? Ci sono diversi itinerari che abbiamo fatto, per esempio uno, vengono a Priedor con gli autobus, a Priedor si sta 2 o 3 giorni dove andiamo a vedere, quindi anche la bellezza naturale, però anche queste cose sociali, diciamo, centri giovanili, altri progetti fatti nel loco, incontriamo le persone, si fanno le cene tradizionali, quindi hanno l'opportunità di vedere anche questo, di assaggiare insomma quello che non trovano nei ristoranti, perché da noi nei ristoranti non ci sono dei cibi tradizionali che spariscono, perché i ristoranti sono adesso in questo momento, quando c'è ancora il regime, problema con i visti, sì. Nei ristoranti maggiormente la gente che lavora lì preferisce di offrire qualcosa di europeo, quindi i cibi piatti tradizionali sono un po' messi a posto, e quindi noi organizziamo queste cene tradizionali nelle case e poi vanno a vedere i balli tradizionali e le cose insomma che non abbiamo opportunità di vedere tutti i giorni, e poi si prosegue soprattutto per Mostar, Travnica, anche perché è molto interessante la storia bosniaca, e poi anche a Sarajevo. E molto spesso si va, sentendo la musica che avete fatto sentire, si va ogni tanto anche a Guča in Serbia, che è molto interessante. Uh-huh. Leggevo che per esempio questa forma di turismo è nata anche per dare lavoro alle molte vedove disoccupate della Bosnia, possono trovare quindi una opportunità di una nuova occupazione? Sì, per noi è stata, cioè noi a Priedor quando abbiamo formato un gruppo, adesso abbiamo l'associazione, però prima abbiamo fatto un gruppo così informale, e avevamo tipo una quindicina di donne, soprattutto donne, perché è un lavoro che donne sanno far di meglio, insomma, e poi è una, sì, un fonte di reddito per loro, che non hanno sempre opportunità. Adesso quando c'è tanta disoccupazione sono sempre gli uomini che hanno prima il lavoro, e quindi per le donne è molto importante. E noi sì, abbiamo molte donne vedove dell'ultima guerra che sono ritornate a Priedor, quindi non, cioè, avevano questa doppia posizione cattiva, tra parentesi, erano donne, poi erano ritornate, quindi per trovare un lavoro era proprio difficile, quindi per loro questo, cioè, non è una cosa grande, però è un fonte dove possono... È già qualcosa, certo, insomma, di importante. Igor, invece, una domanda personale, com'è vivere in Germania da bosniaco? Io, quello che non... che non sapevo prima, c'è molta differenza tra Germania Est e Germania Ovest. Io sono a Dresda, quindi Est, a me piace. Sì, ti trovi bene, ti sei ben integrato? Sì, mi trovo, sì, mi trovo benissimo, poi mi piace, insomma, come società, come sono organizzati, con me, insomma, tutto a posto. E andrai a fare il manager culturale in Bosnia, però, o l'idea è quella di fermarti in Germania? Sì, ogni anno in questo programma ci sono quindi 12 manager culturali e ogni anno almeno 3-4 rimangono qui in Germania, che non è però l'idea del programma, l'idea del programma è che noi torniamo a casa nostra, insomma, per continuare a tenere questi contatti che adesso abbiamo avuto nel programma, e io sì, in dicembre torno a casa. Perfetto, grazie davvero Igor per la tua testimonianza. Ricordiamo il sito www.viaggiareibalcani.it. Europostit. Lavorare nella Torre di Babele. L'Unione Europea cerca interpreti e traduttori, lo segnala il sito Euronet. Nonostante la scelta di limitare al francese, inglese e tedesco le lingue usate nelle comunicazioni interne, l'allargamento dell'Unione Europea a 27 paesi ha moltiplicato la necessità di avere interpreti e traduttori all'interno delle istituzioni. I concorsi aperti dall'Unione per reclutare queste figure professionali sono due. Per i traduttori di danese, inglese, tedesco e sloveno il bando scade il 12 agosto. Per gli interpreti di bulgaro, inglese, olandese, romeno, sloveno scade invece il 19 agosto. L'ufficio europeo che si occupa della selezione del personale è l'EPSO. I bandi sono disponibili quindi sul sito europa.eu/EPSO. L'altra Europa. Questi sono i nostri Europostit. Vi ricordo che potete segnalarci anche voi se avete notizie dall'Europa o se volete proporvi, e l'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. Dalla penisola balcanica ci spostiamo, andiamo a Parigi. Si parla però ancora di turismo e abbiamo preso spunto da un'iniziativa che, sì, viene raccontata anche un po' come risposta a quello che solitamente si pensa magari a un luogo comune, no? Dell'atteggiamento un po' altezzoso dei francesi, soprattutto nei confronti dei turisti che vanno ad ospitare, che vanno a cercare ospitalità nella città. Beh, il Ministero del Turismo, comunque le associazioni legate al turismo parigino, hanno istituito una nuova forma di operatore culturale, di operatore dedicato all'accoglienza turistica, una sorta di ambasciatore di benvenuto a Parigi. Sono per ora 25 persone, stiamo andando nel chiostro di Notre Dame, dove con noi c'è una di queste ambasciatrici. Diamo il benvenuto a Delphine D'Arterie. Ciao Delphine. Ciao. Buongiorno a te, come stai? Buongiorno Xavier. Che giornata è oggi a Parigi? C'è il sole? Il tempo è bene, i turisti cominciano ad arrivare sulla piazza di Notre Dame. E quindi insomma è un bel sabato, si prevede, sì. Un bel sabato. Delphine, tu nella vita fai l'operatrice turistica, l'accompagnatrice, la guida, cosa fai? No, faccio l'informazione dei turisti in Parigi nei punti di informazione turistica dell'ufficio di turismo, ma sono per 5 mesi, fa 2 anni, la responsabile del chiosco. Ah, quindi insomma hai anche un ruolo importante. È bello perché ogni volta che si parla con chi riceve le richieste di informazioni, quali sono le domande più strane o più curiose che ti fanno i turisti? Come si fa per vedere la spiaggia vicino dal fiume durante l'inverno? È una domanda che può sopraire. Ok, nel senso, perché c'è una spiaggia adesso a Parigi che è diventata una delle attrazioni principali della città, vero? Sì, durante l'estate, sì, durante un mese, da giugno a agosto. Ma è bella? Tu l'hai visitata? È vicino dal fiume, avete la vista sui ponti di Parigi con i monumenti. Ebbene, sì, è bellissimo. Mm-hmm. Ho letto che qualcuno ha chiesto che questa spiaggia possa rimanere tutto l'anno, è vero? Rimanere tutto l'anno, sì. Sapete, con il tempo d'inverno in Parigi penso che non è molto facile per la gente che volesse andare. Ci credo. L'altra Europa. ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa, l'altraeuropa@radio24.it. Se volete contattarci, siamo in collegamento in diretta con il chiostro di Notre Dame, con noi la responsabile del chiostro per le informazioni al pubblico, e per parlarci di questo nuovo ruolo che è stato istituito, l'ambasciatore o ambasciatrice di Benvenuto a Parigi. E Delfine, allora, come vi riconoscono i turisti? Avete un vestito, un abito particolare? Io scocci le colori rossa e giallo, e qui portiamo un t-shirt rossa per le donne e giallo per gli uomini. Uh-huh. E con un badge mostrando il nostro nome e le lingue che parliamo. Ok, ma adesso che avete questo nuovo vestito, è cambiato anche il vostro atteggiamento o continuate a fare quello che facevate già prima? No, il lavoro è lo stesso, ma il vestito è differente che ho già fatto. Certo, ma e quindi dovete essere sempre sorridenti, sempre accoglienti? È questo quello che vi è stato richiesto? Sì, in Parigi sì, dobbiamo fare l'accoglienza dei turisti e dare l'informazione bene per i visitatori, perché sarebbe contenti di soggiorno in Parigi. Ecco, ma è un ruolo importante, che sentite importante, cioè vi è stato chiesto di rendere la figura del parigino, del francese, un po' più alla mano, diciamo? Cioè, c'era... sì, esattamente, l'immagine della città anche. Ah, scusa, anche l'immagine della città? Della città, sì. Ok, e come sono i turisti italiani? Tutti contenti, fanno domande per visitare la città, per i bambini, con i bambini che possono fare come andare a Disney, ma sono tutti contenti. Insomma, ti sento molto felice, cioè, è un lavoro che ti piace? Ah sì, molto molto, perché incontriamo persone che vengono da tutta parte del mondo e parliamo le lingue che abbiamo studiato all'università o durante gli studi, e arricchendo per noi. Uh-huh. Delfine, un'ultima domanda, fai finta che io sia un turista, arrivo lì a Notre Dame, qual è la prima cosa che devo assolutamente andare a vedere? E la chiesa, la cattedrale di Notre Dame, ma anche le torri, perché c'è una vista bellissima dalla cattedrale, e sull'isola della città anche la Sainte-Chapelle, che è una cappella molto bene anche. Ecco, e c'è un qualcosa di bello che però i turisti ignorano, non vanno a vedere, che tu mi puoi consigliare? Sì, vicino c'è il canale Saint-Martin, dove si può vedere la pellicola di Amélie, e dove la donna si passeggia vicino dal canale. È molto bello e meno conosciuto dai turisti che Notre Dame o che la Torre Eiffel. È bello, insomma, questa sfumatura romantica, Delfine. Sì, sì, sì. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. Grazie, siete benvenuti a Parigi. Arriveremo, sapremo anche come riconoscerti, perché hai il vestito appunto che ci hai descritto prima. Ciao e grazie, Delfine, buon sabato. Europost-it. Bollicine a Parigi. Da settembre i parigini potranno bere acqua minerale gassata direttamente dalle fontanelle pubbliche. La Società Comunale per le Acque della Capitale Francese aprirà infatti la prima nel giardino di Rey. La fontanella, che avrà anche dei rubinetti per la naturale e per l'acqua a temperatura ambiente, sarà gratuita e accessibile a tutti nelle ore di apertura del parco. L'altra Europa. Anche l'acqua frizzante a Parigi, però a questo giro sono arrivati dopo, perché in Italia ci sono già fontanine con acqua gassata in tante città, e non solo in quelle più grandi, però è una bella idea, insomma, noi tifiamo per le fontane, per l'acqua del rubinetto. Cambiamo città, da Parigi, cambiamo capitale, ci spostiamo a Londra per raccontarvi una storia, la storia di un'italiana che ha vissuto un anno a Londra senza pagare l'affitto e ha detto sì, si può fare. Si chiama Elisabetta Pincherle, ha vissuto sotto il Big Bang facendo una sorta di di cambio di casa ed è qua con noi per raccontarci la sua avventura. Ciao Elisabetta. Ciao Federico. Allora, credo un anno a Londra già indimenticabile, no? Come... Sì, indimenticabile. Sono appena rientrata e già la rimpiango. Parliamo subito di valigia allora, perché leggevo nell'articolo che ti presentava che sì, per andare via con tu e i tuoi due figli, giusto? Se non sì, erro. Io e i miei due bambini, Leopoldo e Nicolò. Hai dovuto spedire 6 scatoloni di abiti. E... Sì, ho cercato di ridurre al minimo perché ho appunto scambiato la mia casa di Milano con una casa a Londra e quindi e ci siamo lasciati nelle rispettive case tutto quello che serve per vivere, quindi piatti, bicchieri, lenzuola, stoviglie, tovaglie, eccetera. E noi ci siamo scambiati le case solo con gli oggetti personali, quindi abiti, scarpe e basta e poco altro. Quindi adesso sei appena tornata e hai di nuovo, sono sempre 6 gli scatoloni o sono aumentati? Sono diventati 12. Ah, insomma, è stato un anno impegnativo quello. Beh, perché comunque le cose si accumulano, si comprano libri, oggetti, giochi per i bambini, abiti, sai com'è, stando vivendo un anno le cose si accumulano e quindi gli scatoloni sono diventati 12. Comunque niente di drammatico, è stata una cosa molto semplice, molto facile da organizzare e molto, molto bella. Siamo entusiasti sia io che l'altra padrona di casa di aver fatto questo scambio. Ecco, Elisabetta, scusami, qui con l'altra Europa appunto cerchiamo nuove contaminazioni tra stati e tra nazioni e la tua esperienza ci piace. E raccontaci, sì, tu puoi proporti per fare uno scambio di casa appunto? No, io ora basta, ora l'ho già fatto. Tu hai già dato, però cosa c'è, un'associazione o ti sei mossa da sola? No, è stato un caso, è stato un passaparola di amici, però esiste un sito internet, vari siti internet che propongono scambi casa in Europa, soprattutto per vacanze, invece io l'ho fatto proprio per un anno intero. Ecco, ma... questo vuol dire però diventare per un anno cittadina di Londra, ma quindi i tuoi figli sono andati a scuola là, hai dovuto proprio cambiare la tua vita completamente per 12 mesi? Sì, i miei figli sono stati iscritti in una scuola pubblica a Londra, proprio davanti a casa, davanti alla casa dove vivevamo, e è stato tutto molto semplice perché a Londra il cittadino paga una tassa, che è una tassa diciamo... al proprio council, che è il comune, e quartiere per quartiere è differente questa tassa, e questa tassa è stata messa a mio nome per un anno ed era quindi a mio nome. Questo mi ha permesso di avere questo documento per poter iscrivere i figli a scuola, poter andare in biblioteca, poter avere il medico di base, insomma avere tutti i servizi di un cittadino inglese. Considerando che noi siamo europei, la cosa è stata molto semplice perché non c'è bisogno di nessun tipo di permesso di soggiorno. Sì, quindi una burocrazia molto agile, anche se da come me la stai presentando pare che per te sia stato più facile essere cittadina a Londra che cittadina a Milano. Ma diciamo che la signora che ha scambiato con me casa e che quindi è arrivata a Milano non ha avuto particolari difficoltà ad ottenere la residenza a casa mia, ha spostato la sua residenza a casa mia e per i suoi documenti non è stato complicato. Ah no, questa cosa ci rassicura, ok, perché insomma abituati ai nostri tempi burocratici pensavo che fosse tutto più lungo e più complicato, invece... No, gli uffici comunali poi funzionano bene e poi la sanità comunque la sanità è europea ormai, sì, mm-hmm, quindi non, con la tessera sanitaria si può girare tutta l'Europa e quindi non è stato complicato. Ecco, questo è un aspetto che appunto non avevo mai considerato dell'Europa Unita. Insomma, ci sono anche dei vantaggi, per fortuna, no? Non sì, sono solo tasse. Non sono svantaggi, non svantaggi. Non solo l'euro, anche se appunto in Inghilterra c'è ancora il pound. Comunque. Ma Elisabetta, quindi da un giorno all'altro sei diventata inglese, sei diventata londinese. Cos'è scattato in te? C'è stato proprio una sorta di cambio anche di identità? Beh, io faccio l'architetto e quindi avevo già lavorato in Inghilterra, avevo seguito dei progetti e quindi mi sembrava un'opportunità interessante perché lì comunque c'è molto lavoro, ci sono buone opportunità e dunque appunto facendo una professione esportabile che è legata a me stessa in quanto una libera professione, non è stato difficile dal punto di vista professionale muoversi lì. E quindi l'ho fatto, l'ho deciso, sì, ho deciso in una settimana più o meno. Una volta che avevo assestato i figli, avevo trovato la scuola per loro, la cosa mi sembrava possibile. E loro come l'hanno vissuta questa? Un grande gioco? Beh sì, all'inizio è stato un po' difficile inserirsi nella nuova scuola, certo, ci sono stati dei mesi un po' faticosi, però adesso, l'altro ieri quando siamo rientrati, piangevano dalla disperazione, insomma, comunque per loro è stata una bellissima opportunità, una bella esperienza, sono stati in una scuola bellissima, organizzata, con bambini di tutte le nazionalità, di tutte le lingue, di tutte le culture, quindi per loro è stata una grande opportunità di apertura mentale, di vedere insomma un altro mondo, di uscire dal loro paese e confrontarsi con una realtà appunto diversa. Credo che per loro sia stato molto utile, anche in prospettiva del loro futuro, sicuramente questa esperienza, di questa esperienza faranno tesoro. Sì, e poi parlano inglese perfettamente. Questo quindi, ci credo, quindi una, sicuramente una fortuna. È bastato un anno però di full immersione. Sì, per i bambini basta un anno, per gli adulti no, mm-hmm. Però per i bambini sì. Ecco, ma tu hai fatto comunella con la comunità italiana o sei riuscita a integrarti anche con Ma con io avevo amici di tutte le nazionalità, devo dire, ho amici che vengono un po' dappertutto. Poi Londra è una città molto internazionale, quindi ci sono gli inglesi, che tra l'altro io ho trovato comunque molto accoglienti, nonostante quello così il luogo comune che dica che non lo siano, e anche altre cittadini europei, altri cittadini del mondo, americani, messicani, spagnoli, insomma, comunque ho avuto amici di tutte le nazionalità. Ecco, ed è scattato un po' quello che scatta sempre, di fare un confronto continuo. Vabbè, Londra è così, Milano è così, in Italia succede questo. Certo, sì, certo, un po' sì. E comunque Londra è una città di grandissima civiltà, direi che non c'è niente più di Londra, almeno credo, da certi punti di vista. Comunque la cura degli spazi, la cura della città, i parchi, quello che la città offre, la quantità di opportunità che dà, ma non solo private, non solo quindi diciamo costose, ma anche proprio messe a disposizione di tutti i cittadini, quindi pubbliche. Non so, pensa che solo tutti i musei sono gratuiti a Londra, quindi non si paga il biglietto d'ingresso, i parchi sono accessibili per tutti, le biblioteche sono a disposizione di tutti, quindi è una città molto accogliente, secondo me appunto molto avanti dal punto di vista così della civiltà, e certo impone regole precise che non si possono infrangere, quindi sono molto severi se le regole poi vengono infrante. Ecco. Elisabetta, sei appena tornata in Italia, la casa tutto bene? Com'è rientrare dopo un anno nella propria casa, vissuta da un inglese? Hai trovato tracce della loro presenza? Che ne so, hanno certo, cambiato delle tende? Qualche traccia, tipo in cucina non ritrovavo più le tazzine del caffè perché le avevano spostate, cose così, però niente di drammatico, la casa in perfette condizioni. Io ho cercato di lasciare a loro la loro casa in altrettante buone condizioni, e il fatto di scambiarsi casa è una garanzia, perché comunque loro, questi ospiti sono a casa tua, ma tu sei a casa loro, quindi un rispetto reciproco è molto alto. Ma sì, quindi tu non hai lasciato tracce della tua italianità, là? È un classico pacco di spaghetti in un angolo della cucina? Beh, qualche pacco di spaghetti sì, gliel'ho lasciato, certo. Grazie davvero, certo. Elisabetta, complimenti per questa bella, bella esperienza. E grazie Federico, grazie a voi di avermi ospitato, e saluti a tutti. Ciao, buon sabato. L'Europost-it e poi le informazioni per chi sta viaggiando. Europost-it. Cercasi studenti di architettura, arte, disegno e belle arti con un'idea per l'Unione Europea. L'UE ha indetto un concorso perché è alla ricerca infatti di un'idea grafica per gli edifici delle istituzioni, quello di Bruxelles e quello del Lussemburgo. Una nuova veste grafica comune, un fil rouge che leghi e renda più uniformi e riconoscibili al pubblico le sedi dell'Unione. Per partecipare a Filo Rosso per la Commissione c'è tempo fino al 30 settembre per consegnare le proposte, ma solo fino al 31 luglio per iscriversi. I tre finalisti saranno invitati a Bruxelles a spese della Commissione per la cerimonia di premiazione e riceveranno rispettivamente 3.000, 2.000 e 1.000 euro per il primo, secondo e terzo classificato. Il sito italiano è ec.europa.eu/oib/fil-rouge. L'altra Europa. Abbiamo aperto questa puntata parlando del Kosovo, uno dei paesi più poveri dell'Europa, ma c'è un'altra nazione che credo che nella classifica sia ancora al di sotto del Kosovo. Parliamo della Moldavia, il nome ufficiale Repubblica Moldova. Sta accadendo qualcosa, perché? Perché la Romania ha deciso di regalare di fatto la cittadinanza a decine e decine di migliaia di moldavi ogni mese. Abbiamo quindi chiamato nuovamente Giuliana Angel, giornalista della redazione di Radio Romania Internazionale, che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, per farci raccontare quello che sta accadendo. Ciao Giuliana! Ciao da Bucarest, mi fa piacere poter fare un po' dei chiarimenti su questa storia, perché ultimamente abbiamo visto anche noi sulla stampa internazionale alcuni titoli. Innanzitutto scusa Giuliana, se ti interrompo, girovagando soprattutto in internet e leggendo sulla stampa si legge questa cosa: attenzione, non siamo più 27 stati in Europa, ma siamo già 28. Perché? Perché la Romania di fatto ha inglobato la Repubblica Moldava. Cosa succede? Allora, dobbiamo chiarire una cosa. Innanzitutto non si tratta di regali, e poi non è vero che la Romania concede decine di migliaia di cittadinanze al mese. Innanzitutto dobbiamo chiarire perché la Romania concede la cittadinanza, che praticamente non la concede, la riconcede. Perché vogliamo chiarire un po' il contesto storico. Praticamente fino al 1940, quando venne annessa dall'Unione Sovietica in seguito al patto Ribbentrop-Molotov, la Moldavia faceva parte della Romania, ma quindi è diventata Repubblica Sovietica, e così è rimasto per tutto il periodo comunista fino al 1991, quando ha dichiarato l'indipendenza dall'Unione Sovietica, che peraltro si è anche smembrata sempre nel 1991. La Romania ha sicuramente, dati tutti questi legami di sangue, di appartenenza linguistica, parliamo la stessa lingua, il romeno, no? La Romania è stata il primo Stato che ha riconosciuto subito l'indipendenza della Moldavia, senza mai avere delle pretese territoriali, però ha promosso un rapporto speciale appunto alla luce di questa comunanza storica e linguistica. E allora, siccome al momento dell'annessione da parte dell'Unione Sovietica gli abitanti della Moldavia erano cittadini romeni, perché anche oggi sono in maggioranza romenofoni, no? Allora vabbè, ce ne sono anche ucraini, russi, però sono una popolazione minoritaria lì. Allora le autorità di Bucarest negli ultimi anni hanno adottato una legge che consente ai moldavi di riavere, in base a valutazioni individuali, non così di massa, di riavere questa cittadinanza romena, che comunque i loro devono dimostrare con documenti, no? Che se i nonni, ad esempio, vivevano nella Moldavia quando faceva parte della Romania ed erano cittadini romeni, allora adesso, in base a questi documenti e in base ad una valutazione molto molto seria, viene riconcessa. In riferimento alle cifre, sì. Praticamente finora solo 200.000 moldavi hanno inoltrato le sollecitazioni e solo 120.000 l'hanno anche ottenuta. Quindi non si tratta di, nei primi 4 mesi del 2010, per precisione, il Ministero della Giustizia di Bucarest ha risolto altre circa 11.000 sollecitazioni. Però, non è che viene concessa così da un giorno all'altro e a tutti. Se loro dimostrano che avevano parenti molto vicini, no, che sono parenti di fino al terzo grado, che allora erano cittadini romeni, quindi ridiventano anche loro cittadini romeni. Ma comunque, proprio il capo dello Stato romeno, Traian Băsescu, ha spiegato proprio in questi giorni che nessuno si deve preoccupare, in quanto i moldavi che ricevono la cittadinanza romena vivono nella maggior parte in Romania. Giuliana, tra l'altro abbiamo proprio le parole per avere anche una sonorità, non capiremo quello che ha detto, ma ce lo stai spiegando tu, però ascoltiamolo un attimo. În Uniunea Europeană sunt un milion aproximativ. Un milion de moldoveni care lucrează ilegal. Poate îi ajută cineva să legalizeze. Noi avem o obligație de sânge să îi sprijinim dacă tot sunt în Uniunea Europeană și lucrează. Cum Dumnezeu nu-i observăm când lucrează la negru, dar îi observăm când vin legal. È una sua risposta, vero, alle accuse di aprire le frontiere a migliaia di moldavi. Esatto, e lui ha detto proprio così. In questo momento nell'Unione Europea si trovano circa 1 milione di moldavi irregolari. Forse qualcuno li aiuta a regolarizzarsi. Noi abbiamo il dovere di sangue di sostenerli, già che ci sono nell'Unione Europea e lavorano. Ma come mai? Non li vede nessuno, non li vediamo quando lavorano in nero e li vediamo invece solo quando sono regolari. Era questa, insomma, la domanda piuttosto retorica, no, del capo dello Stato romeno. Peraltro voglio dire che un dialogo istituzionale tra la Moldova e l'Unione Europea esiste. L'ingresso nell'Unione Europea è un'aspirazione delle autorità di Chisinau. È stato avviato anche un dialogo in materia di liberalizzazione dei visti tra Bruxelles e Chisinau. Quindi le autorità di Chisinau si augurano che questo diritto alla libera circolazione possa essere funzionale dal 2013. Esiste sempre a livello dell'Unione Europea un gruppo informale di sostegno dell'ingresso della Moldavia nell'Unione. Quindi ci sono più, forse queste cose sono meno conosciute, sono, insomma, però bisogna chiarire un po' certe cose. Ci piace farlo anche qui all'Altra Europa, quindi insomma per quello anche abbiamo chiesto il tuo intervento. E Giuliana, però, visto che ci sei, cambio per un attimo argomento, ci spieghi questa cosa degli orsi che si stanno vedendo, strani orsi per le strade di Bucarest o per le strade della Romania, cosa sta accadendo? No, adesso abbiamo un'altra puntata carina con gli orsi. Vabbè, parlando generalmente degli orsi in montagna, sì, a volte si avvicinano, soprattutto nel centro del paese dove è zona di montagna, si avvicinano, no, ai cassoni di immondizia magari cercando. Guarda, quello accade anche in Italia. Questo accade un po' dappertutto. Sono un po' infastiditi perché tutti i turisti sono curiosi di fotografarli, di così via. Dà fastidio questa cosa non è consigliabile. Ma adesso è successa proprio in questi giorni una cosa molto buffa. Una ventina di ecologisti, no, vestiti di orsi, sì, si sono messi dei pannelli in romeno e inglese per protestare contro la costruzione di un'autostrada nell'ovest del paese. Peraltro le autostrade sono tanto necessarie alla Romania, però loro sostengono appunto che la costruzione di questa autostrada rovinerebbe la biodiversità, insomma non ci sarebbero più dei posti di riproduzione per i rettili, quindi c'è tutto un casino. E allora loro si sono vestiti da orsi, hanno bloccato. È una protesta peraltro molto originale, però comunque l'autostrada sarà sicuramente costruita alla fine. E poi Giuliana, utilizzando la parola casino, hai dimostrato che tu l'italiano lo conosci molto bene. Grazie davvero, sì. Giuliana Angele, giornalista di Radio Romania Internazionale. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Europost-it. Svizzera, il Festival en plein air. È il più grande festival svizzero all'aperto. Il Paleo Festival è in corso a Nyon, nella Svizzera francese, e si chiuderà domani. Molti gli artisti che si stanno esibendo in questi giorni, e tra questi c'è anche il cantante italo-scozzese, la rivelazione del momento, Paolo Nutini. Nutini si esibirà questa sera alle 21 sul palco del Paleo Festival. Tutte le informazioni su paleo.ch. L'altra Europa. L'altra Europa termina qua. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli, che ha scritto il programma con me, ad Anita Panizza in redazione, a Peter Bescapè alla parte tecnica. L'altra Europa @radio24.it se volete scriverci, oppure ritroverete le puntate in podcast sul sito radio24.it. L'appuntamento con l'altra Europa è a sabato prossimo alle 10. Noi invece ci ritroviamo domani alle 17 con Mine Vaganti. Ciao!